Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata Rituali, informazioni di servizio. La prima è quella relativa al nostro sito radio24.it, dal quale potrete scaricare tutte le puntate di tutte le nostre trasmissioni e potrete anche andare a verificare se i conduttori e i giornalisti hanno dei blog. È un modo per comunicare. Il mio lo conoscete, lo trovate sotto il profilo a Radio 24, si chiama Guardie o Ladri, potete accedervi anche attraverso l'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio è quella che probabilmente è ancora più interessante, vale a dire la mail alla quale rivolgervi per le vostre segnalazioni. Mail che è stata raggiunta da una nostra radioascoltatrice di Ariccia, quindi ci troviamo in una zona splendida alle porte di Roma, ed è una radioascoltatrice non vedente. Buongiorno signora Elisa Valeri. Eccomi. Un passato da direttrice amministrativa in una grande azienda e oggi, come dire, aiuta ancor prima che se stessa chi si trova nella sua stessa condizione a trovare soluzioni ai problemi che i non vedenti purtroppo quotidianamente incontrano. La sua disavventura o comunque l'incomprensione è stata con l'INPS, motivo per il quale, come sempre, noi chiamiamo a interloquire anche la controparte. Quindi do il buongiorno al collega Marco Barbieri, che è capo ufficio stampa delle relazioni esterne dell'INPS. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, dottoressa Valeri, può raccontarci che cosa è successo nel momento in cui lei è stata chiamata da una commissione medica a fare un controllo su quella che lei ha definito con un termine tecnico persistenza delle condizioni di invalidità, vale a dire il riconoscimento ennesimo della sua cecità? Prego, dottoressa. La prima convocazione è stata il 25 agosto, ore 13, presso l'INPS di Via Chopin a Roma. Io mi sono presentata, due medici mi hanno fatto delle domande e alla fine mi hanno chiesto un certificato medico aggiornato della situazione oculistica mia. Dico, ma io certificato medico aggiornato non ne ho portato, sono qui, se avete l'oculista visitatemi. Certo, ricordiamo, ecco, la interrompo soltanto un attimo per dire che la dottoressa Valeri sta, come dire, da diversi anni portando avanti il suo percorso di riconoscimento di cecità, che non è una cecità totale, ma è da 7-8 anni che sta portando avanti la sua pratica. Quindi quel giorno l'oculista che avrebbe potuto sostituire il certificato, diciamo così, non c'era. Era un controllo di questi per trovare i falsi invalidi. Certo, quindi l'avevano chiamata per questo, insomma. Sì, perché mi sembra che il governo stia facendo dei controlli a tappeto per cercare falsi invalidi, giustamente. Ed è sacrosanta come cosa. Giustamente, io sono contenta anche che venga fatto, perché ci vanno di mezzo i veri invalidi. Esattamente. Allora, lei quindi il 25 agosto non ha l'oculista presso la sede INPS. Dice, la richiameremo. Bene. Okay. Io il 19 novembre dovevo accompagnare un socio con i ragazzi del servizio civile, mi sono ridecata lì a Via Chopin, dico ti accompagno e vedo se mi devono richiamare, e non hanno visto la cartella mia, dice perché non potevano, non lo so. Una raccomandata spedita il 10 novembre, io purtroppo l'ho ritirata il 30 novembre e ho letto che la convocazione era per il 24 novembre. Quindi un rincorrersi di persone, sì, poi di date. Io ho l'INPS Sportello Mobile, perché noi come associazione siamo in corrispondenza con l'INPS Sportello Mobile, che segue i disabili al 100%. Ecco, l'associazione, diciamo, l'Unione Italiana Ciechi, di cui fa parte la... Sì, no, l'INPS proprio Sportello Mobile, sì, certo, uno sportello che segue direttamente le pratiche dei disabili al 100%, non vedenti oppure disabili per altre, certo, patologie. Allora, diciamo così che vi siete rincorsi, fra INPS e lei vi siete un po' rincorsi. Lei è andata a questo controllo, non aveva la cartella aggiornata, non aveva comunque questo certificato, il 19 accompagnato di novembre, quindi mesi dopo, un socio, non avevano la possibilità di dirle che di lì a pochissimi giorni avrebbe potuto fare il 24 novembre la visita, fatto sta che la convocazione arriva quando il giorno del controllo era già passato e è trascorso. Allora, questa è una puntata che serve per fare chiarezza, quindi non è l'INPS sotto accusa, Anzi, come ha detto giustamente Valeri, ben vengano questi controlli. Allora chiedo a Marco Barbieri, c'è stato qualcosa che si è inceppato in questa procedura o comunque, al di là del caso, qual è la procedura che segue l'INPS per questi controlli? La procedura purtroppo fino diciamo al 31 dicembre dell'anno scorso era complicata oggettivamente perché come voi sapete fino all'anno scorso c'era un soggetto, le ASL che certificavano l'invalidità e un soggetto, l'INPS, chiamata ad erogare. Certo. E solo successivamente a fare eventuali controlli o verifiche straordinarie. Dal 1 gennaio di quest'anno le cose sono cambiate, quindi c'è un soggetto unico, l'INPS, che chiama a visita sia nel momento in cui c'è la certificazione iniziale sia per l'erogazione. Purtroppo può succedere, come credo che è successo per la signora Valeri, che noi quando chiamiamo a visite straordinarie, le verifiche appunto non solo contro i falsi invalidi, ma anche per fare una sacrosanta, come dire, verifica delle prestazioni a chi vengono erogate, non sappiamo quale sia la patologia della persona che ha ricevuto il sussidio, perché le ASL ci trasmettono, ahimè solo l'8% delle ASL ci trasmette il fascicolo sanitario, per cui la signora Valeri quando è venuta il 25 agosto a far la visita, giustamente se ci fosse stato un oculista avremmo risolto tutti i problemi, sia la signora che noi. Il fatto che non ci fosse l'oculista non era una nostra disattenzione, era che noi non sapevamo che in quel giorno arrivava una persona con questo tipo di disabilità, perché appunto l'ASL in questo caso, che ahimè nel 92% dei casi, non ci trasmette i fascicoli sanitari. Ho capito, questa è una disattenzione, quindi, direi abbastanza grave da parte delle aziende sanitarie locali, in un mondo in cui, Marco tu lo sai benissimo, la telematica la fa da padrona, il fatto che una percentuale così ridicola adempia questo obbligo è davvero sconcertante. Purtroppo sì, anche perché poi sono fascicoli ancora cartacei, quindi diciamo, sì, diciamo che certo, c'è una complicazione, certo, della complicazione. Certo, certo. Nel caso della signora Valeri, purtroppo quindi non ha potuto essere visitata in quel giorno dall'oculista perché non sapevamo, cioè la nostra commissione non sapeva che si presentava una persona ipovedente con problemi diciamo di tipo oculistico. Diciamo, oltre alla chiamata a visita, poi c'è l'aspetto ancora che non è stato affrontato, ma la revoca diciamo della prestazione che è intervenuta, però è intervenuta dopo due richieste di visita. Ecco, questa è la cosa, l'aspetto più interessante, no? Cioè a un certo punto la signora Valeri rischia o addirittura gli è stato tolto quello che era un suo diritto, diciamo così, di prestazione economica per chi, come nel suo caso, appunto la non vedente. Ecco, però da questo punto di vista, ecco, dopo due visite non fatte. In realtà la signora Valeri a noi risultava chiamata a visita sia il 29 settembre e c'è una raccomandata che è rimasta per compiuta giacenza senza risposta il 29 settembre e la raccomandata del 24 novembre che appunto dice la signora Valeri essere arrivata in ritardo, quindi noi abbiamo mandato due volte la convocazione. Ecco, ma a questo punto Barbieri, come verrà risolto il caso? Intanto abbiamo dato un'informazione molto importante a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che si trovano in queste condizioni, vale a dire occhio alle raccomandate che l'INPS spedisce nel caso in cui voi siate percettori di pensioni di invalidità. Detto questo, adesso nei confronti della signora Valeri come vi comportate? La cosa più semplice e più rapida per tutti, perché nessuno ha interesse di non fare un buon, certo, servizio, è che la signora Valeri, a noi non risulta che abbia fatto dopo la mancata visita del 24 novembre e quindi dopo la revoca, a noi non risulta che abbia scritto, in questi casi deve essere questo, cioè è il soggetto beneficiario della prestazione che si siede revocata la prestazione che deve rivolgersi alla commissione medica superiore, visto che la commissione normale non ha potuto visitarla, per chiedere una visita. Benissimo, allora io nel giro di una settimana, nel momento in cui noi diciamo questa cosa, la chiameremo a visita e se la patologia è quella che viene detta, ecco, non ci sarà problema, ecco, di riconoscerla. Di questo ti ringrazio Marco e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare anche per il tuo intervento. Dottoressa Valeri, lei ha ricevuto questa... Allora, io adesso ho ricevuto una lettera di presentarmi presso l'INPS di via dei Laterani 12 Roma. Benissimo, quindi vuol dire che sarà questa visita superiore, come ci spiegava Barbieri dell'INPS. Mi raccomando, occhio quindi alle comunicazioni che vengono spedite. Grazie ai nostri due interlocutori, in regia Pietro Lacorte e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Calullo vi augura una buona giornata.